La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, con La Rosa Purpurea è l'ora di cinema settimanale di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi e siamo qui per parlare nella prossima ora delle principali novità al cinema, sul grande schermo, in sala, ma anche dei principali film da vedere o rivedere in casa e, come sempre, per giocare con voi, per vincere i più bei film in Blu-ray, giocando con il nostro film misterioso. E allora, è una settimana non particolarmente intensa in termini di numero di film in uscita, ma molto importante per la qualità, il calibro dei pezzi da 90 che arrivano, da Paolo Sorrentino con This Must Be the Place a Jon Favreau con il Cowboys and Aliens, Jon Favreau regista di Iron Man, e ancora un blockbuster annunciato ma non particolarmente riuscito come I Tre Moschettieri. Insomma, c'è davvero un po' di tutto. Noi daremo grande spazio a 4 di questi 6 film che escono in sala. Cominciamo allora a riepilogare i contenuti della nostra trasmissione nei titoli di testa. Paolo Sorrentino e il suo film americano. This Must Be the Place sbarca nei cinema italiani con un sorprendente Sean Penn nei panni di una rockstar depressa e in declino. La sua vita sarà rilanciata dalla ricerca dell'aguzzino del padre nei campi di concentramento. Alla Rosa Purpurea, intervista con il regista napoletano. C'erano una volta i Pelle Rossa. Adesso a lottare contro i cowboy ci pensano gli extraterrestri. È Cowboy and Aliens, un cast di peso, da Harrison Ford a Daniel Craig a Olivia Wilde, per un film ricco d'azione, ma riuscito solo a metà. Un bambino che cresce da solo davanti alla TV è un bambino a rischio. Almeno è quel che accade ad Alex, 10 anni, 2 amici immaginari, una TV in camera e un crescente senso di fascinazione per le immagini di guerra e violenza. È I Want to Be a Soldier e nel cast spunta Valeria Marini. Frammenti di un bacio di Greta Garbo, immagini di un Alfred Hitchcock delle origini. Al Festival del Cinema Muto di Pordenone, che si è appena concluso, la fanno da padrone i grandi nomi di Hollywood. Ne parliamo con il presidente Livio Jacob. E allora, questi titoli cominciamo a tuffarci in sala, cominciamo ad andare a vedere cosa c'è sul grande schermo di nuovo da questo fine settimana. Lo facciamo partendo da una storia senza età, come quella dei Guasconi, Tre Moschettieri, che ritrovano la via della sala. Chissà quante decine di versioni ormai sono state fatte al cinema di questa storia e di questo film. I Tre Moschettieri, dicevo, tornano in sala in un colossal che però strizza forse un po' troppo l'occhio alla produzione più recente in termini anche di azione, senza forse entrare troppo nel dettaglio e nel clima di quello che era la storia di Porthos, Athos e Aramis. Ce ne parla Chiara Pizzimenti. Vi sono cose a questo mondo per cui vale la pena combattere e morire. Siamo guerrieri. Questo siamo. È il nostro mestiere. Sì, sono moschettieri, al servizio del re di Francia da secoli e fonte di ispirazione per il grande schermo da decenni. D'Artagnan, il Logan Lerman già interprete di Percy Jackson, è di nuovo partito dalla Guascogna per unirsi al celebre trio Athos, Porthos e Aramis. Viviamo in un regno dominato dalla paura. Il cardinale controlla il territorio, Buckingham controlla i cieli. Le mie nuove macchine da guerra ristabiliranno l'equilibrio. E lei è la più feroce assassina che il mondo abbia mai conosciuto. È il futuro dell'intera Europa essere in pericolo a causa delle macchinazioni del cardinale Richelieu, un Christoph Waltz veramente perfido, del duca di Buckingham, Orlando Bloom, e della Milady di Milla Jovovich. Siamo i moschettieri. È nostro compito porre fine agli intrighi del cardinale. Tutti per uno? Uno per tutti! Eravamo in 4 contro 40 di loro. Erano 40? O 400? 40, 42. Giornata fiacca. When we were young, the world seemed so old, careless and cold. We did what we were told in our lives. When we were young. Il celebre motto, insieme ai personaggi e alla collana da recuperare, è una delle poche cose scritte da Dumas padre che resta in questo film. Fra le decine di versioni cinematografiche, da Gene Kelly a Leonardo DiCaprio, passando per Richard Chamberlain, Oliver Reed e Charlie Sheen, questa pare la meno tradizionale di sempre. We were drawn to whoever. whatever could keep us together and bound by the heavens above. Secondo il regista Paul Anderson, già dietro la macchina da presa della serie di Resident Evil, ogni generazione ha diritto ai suoi moschettieri, che diventano specchio dei tempi in cui sono stati rievocati. Poco XVII secolo dunque, ma forti tratti fantasy, un prologo veneziano che fa un po' James Bond, armi improbabili, prestiti da Mission Impossible, Entrapment, Sherlock Holmes e dai Pirati dei Caraibi, con navi volanti che atterrano su Notre Dame, oltre al solito 3D non essenziale. Non si cerchi la letteratura andando al cinema, bisogna limitarsi a godere di un po' di divertimento fracassone e sopportare l'improbabile che si vede sullo schermo. Un po' banale, tutto è reale, preferisco cose un po' più serie. No, è un bel film adatto al cinema che riprende un pochino la storia. Molto americano, non è ovviamente una traduzione letterale del romanzo, però è molto simile a Sherlock Holmes, forse un po' troppo. Simpatico, poi a me come storia piace. Anche se non è proprio lineare. Sì, è un po' creativo, diciamo. È un po' fantascientifica come film. La rosa purpurea. La musica dei Talking Heads, This Must Be The Place, ci introduce ovviamente all'omonimo film di Paolo Sorrentino, che arriva nei cinema italiani in questo fine settimana con grandi aspettative, con un grande trascinamento di carattere mediatico, con tante attese, perché questo è uno dei registi italiani più importanti che oggi il nostro cinema abbia, forse il più importante della sua generazione. Paolo Sorrentino che torna in sala allora dopo il successo clamoroso sotto tutti i profili del Divo 2008, ma ancora prima di film come L'Uomo in Più, Le Conseguenze dell'Amore, e lo fa questa volta sbarcando in America. L'avete seguito, il film è stato presentato tra l'altro a Cannes, quindi qualche mese fa, sbarcando in America con una storia che ha coinvolto, e poi sentiremo in maniera anche molto, molto emotiva, un attore come Sean Penn. La storia, che storia è? Questo This Must Be The Place, che prende proprio il titolo, dicevamo, da questa canzone che stiamo sentendo, un evergreen immortale dei Talking Heads. È la storia di Cheyenne, una ex rockstar cinquantenne in declino, che ha una somiglianza con il leader dei Cure piuttosto evidente, capelli scarmigliati, neri, un po' per aria, rossetto sulle labbra, nero sugli occhi, interpretato appunto da uno allampanato Sean Penn. Ebbene, questa rockstar in declino vive una vita agiata, senza grossi problemi, con tutti i soldi che ha accumulato, nella sua grande casa di Dublino, insieme alla simpatica compagna Jane, una pompiera, una vigilessa del fuoco, interpretata da Frances McDormand. Ebbene, un ménage tranquillo, forse certo qualche neurone bruciato dagli eccessi di una vita da rockstar c'è, però insomma i due non sembra mancare niente, anche nella loro affettività. Però Cheyenne è un tipo strano, un tipo che va in giro per Dublino con il suo trolley, tipo di quelli che le massaie hanno per andare a fare la spesa, non so se avete presente, strascicando il passo e non solo, anche il linguaggio. Sentiamo. Jane, ti posso chiedere una cosa? Certo, tesoro, dimmi. Perché hai lasciato che un architetto scrivesse cuisine nella nostra cucina? È stupido, lo sappiamo che è la cucina. Torna presto, ricordati che non so stare senza di te. Non è vero, ma è bello che tu me lo dica. Molti cercano di spingere Cheyenne dalla famiglia, gli amici, Cheyenne a tornare nel mondo del rock. In un'atmosfera di revival come quella dei nostri anni sarebbe il minimo e forse il successo sarebbe a portata. Ma Cheyenne è un depresso, un ansioso e non crede più nel potere taumaturgico del rock, anche da quando un paio di suoi fans si sono tolti la vita, forse si dice spinti dalla depressione che emanavano i suoi testi. Una colpa che Cheyenne non si è mai, dalla quale non si è mai affrancato. Ebbene, un giorno arriva una notizia, arriva una telefonata. Cheyenne viene informato da New York che suo padre, con cui non ha contatti da 30 anni e che sta in America, New York appunto, sta per morire. Mio padre sta morendo di vecchiaia, una malattia che non esiste, e io non prendo un aereo da 30 anni. Non è la paura dell'aereo l'unico problema. È vero. Infatti ho anche una leggera paura di morire. Sì, ma non puoi morire se prima non vendi le Tesco. E allora, nonostante la paura di prendere aerei, appunto, Cheyenne in nave, attraversa l'oceano, arriva in America, il padre ormai è morto, è troppo tardi, non è troppo tardi per trovare una vendetta, perché il padre era stato oggetto di un aguzzino durante la Seconda Guerra Mondiale in un campo di concentramento, era stato fatto prigioniero e il suo aguzzino, appunto l'ufficiale nazista che lo perseguitava, Aloise Lange, vive negli Stati Uniti. Il film diventa un'altra cosa, diventa un road movie attraverso gli Stati Uniti alla caccia di questo ex gerarca nazista, forse per espiare una colpa mai pagata, forse anche per cercare definitivamente se stessi. Questa è la storia di This Must Be The Place, con uno straordinario Sean Penn che si cuce addosso un personaggio eccezionale, con luoghi meravigliosi mostrati con la consueta sapienza da Paolo Sorrentino. Forse quello che non gira veramente fino in fondo è proprio la forza della storia, che è una forza che non arriva del tutto, forse una storia troppo frastagliata, troppo frammentata, in una prima parte che racconta una storia che svela un personaggio e una seconda che invece lo mette all'interno di questo paesaggio e lo fa agire. Forse sono parti troppo separate. Sembra quasi in certi momenti poi che la forza produttiva di questo film, che è un film americano in tutto e per tutto, sia stata usata forse un po' troppo, con qualche eccesso da Paolo Sorrentino, qualche dolly di troppo, la musica onnipresente, la presenza di David Byrne e Talking Heads, che appunto canta anche questa canzone dal vivo. Insomma, sembra che in certi momenti quella forza produttiva di questo film, dicevamo, abbia un po' sovrastato Paolo Sorrentino, che abbia lasciato per strada la sua proverbiale asciuttezza, pur nella surrealismo, possiamo dire, che ha sempre identificato e contraddistinto i suoi film. Tra poco sentiremo Paolo Sorrentino nell'intervista che ci ha rilasciato qui alla Rosa Purpurea. Prima però giochiamo insieme, piccola parentesi, piccola finestra, con il nostro Blu-ray game. È la prima traccia del film misterioso di oggi, sentiamo. Gli sposi sono due operai in tuta di lavoro, che si chinano sul motore e lo riparano. E in caso di adulterio? Che ne è del matrimonio, Pop? In caso di adulterio, al posto di due operai, ce ne sono tre, quattro. La Rosa Purpurea @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta, per provare a vincere il Blu-ray, come sempre l'invito è quello di inserire anche il vostro indirizzo di posta di corrispondenza ordinaria per facilitare poi le operazioni di spedizione. Più tardi, come sempre, vi daremo un altro paio di possibilità. E allora, archiviata la parentesi sul game, noi torniamo a Paolo Sorrentino, torniamo a This Must Be The Place con l'intervista che il regista ci ha rilasciato a margine della presentazione milanese del film. Sentiamo. Paolo, è un film nel quale non è facile capire bene da dove cominciare, perché ci sono tanti spunti e tanti stimoli. Io partirei da Sean Penn, per un fatto come Ubi Maio, non so come dire, no? E da questa immagine incredibile. E allora ti chiedo intanto, appunto, come è stato questo incontro proprio sul set, perché poi come ci sei arrivato lo sappiamo, e come è cambiato il personaggio dopo, cioè quanto era già così quando l'avevi scritto e quanto ci ha messo di suo e lo ha trasformato da grande attore qual è. Personaggio era in gran parte tratteggiato nella sceneggiatura, perché essendo un personaggio così connotato è inevitabile che era stato pensato a priori sulla sul soggetto, insomma. Naturalmente, trattandosi di un protagonista assoluto, e quindi si cerca di frequentare una complessità o quantomeno una ricchezza di sfumature all'interno di un personaggio, queste sfumature erano in parte tratteggiate nella sceneggiatura, ma devo dire gran parte, fortunatamente, sono il frutto dell'apporto di un grande attore come lui, che sa lavorare sui dettagli, appunto sulle piccole reazioni, i micro comportamenti dell'uomo nella vera vita. E su questo, oltre a contributi come un certo uso della voce, un certo modo di incedere, questi sono tutti contributi molto forti portati da Schubert. Proprio su questa cosa della voce, quanto hai trovato qualche difficoltà nel doppiaggio? Cioè, nel senso, è una voce che poi chiaramente anche il più bravo dei doppiatori forse non riesce a riportare così com'è. Ma no, io non ho trovato difficoltà semplicemente perché non ho voluto curare io il doppiaggio, mi sono affidato alla bravura dei direttori di doppiaggio e dei doppiatori. È un lavoro a parte che io non faccio, fanno altri, ed è giusto che lo facciano quelli che lo sanno fare. Ma insomma, il discorso è sempre lo stesso da sempre: il doppiaggio in Italia viene fatto estremamente bene, ma è ovvio che non è il film in lingua originale, insomma non può essere rappresentativo del lavoro che hanno fatto gli attori veri sul set. Ecco, è anche un film di grandi contrasti, nel senso che hai messo un personaggio così apparentemente futile, annoiato, leggero, come si dice nel preso, che galleggia, di fronte a una cosa che invece è una cosa grande, una cosa con la storia con la S maiuscola, i campi di sterminio. Come scocca questa scintilla poi? Questa scintilla scocca sulla base di una relazione familiare, perché il padre era stato un uomo che aveva vissuto era stato nei campi di concentramento, e il figlio lo scopre in seguito alla morte del padre, quindi decide di saperne di più e di intraprendere un viaggio dove veste gli insoliti e goffi panni del detective, trattandosi invece di una rockstar, non ha gli strumenti, però con il suo modo di essere e di stare al mondo, inaspettatamente e anche in una maniera direi abbastanza ironica, riesce ad avere delle doti di detective, e quindi si mette seriamente sulle tracce di quello che è stato l'aguzzino del padre durante la Seconda Guerra Mondiale. E fondamentalmente questo è l'aspetto della trama. Poi insomma, io te trovo sempre decisivo ed affascinante nella biografia di ciascuno, e quindi anche all'interno di un film, raccontare quando a un certo punto gli uomini si trovano di fronte a delle prove decisive. È una cosa che capita a tutti, ed è il momento in cui per usare una brutta espressione, vengono i nodi al pettine delle persone. Ecco, il cinema americano, per come lo hai conosciuto professionalmente arrivando a questo sistema, diciamo, ti ha chiesto qualcosa? Hai dovuto fare dei compromessi? È un cinema, adesso non so, penso per esempio all'uscita pre-Oscar, a tutto quello che comporterà tutta sta cosa, ecco, quanto hai dovuto mordere il freno su queste cose, insomma? No, noi grazie anche all'attenzione e alla pazienza dei produttori italiani abbiamo creato tutta una serie di reti di protezione e di cautele, per cui siamo riusciti a mantenere una totale autonomia decisionale sul film. Su quello che verrà dopo vedremo quali sono le richieste, le eventuali formule compromissorie che possono chiedere. E dopo questa esperienza il cinema americano può essere il posto di Paolo Sorrentino? Beh, in verità mi piace raccontare i personaggi, semplicemente, e quindi non c'ho un posto, c'ho il posto dove mi portano i personaggi. In questo caso i personaggi portavano in America e siamo capitati in America, ma non ho preferenze di luoghi. Sono una conseguenza di quello che fanno i personaggi che mi piace raccontare, i luoghi. La Rosa Purpurea. Eccoci di nuovo insieme, Rosa Purpurea terza parte, ancora novità in sala che arrivano sui nostri schermi. Fra poco parleremo di Cowboy e Alieni, Cowboys and Aliens, il film con Harrison Ford, Daniel Craig, insomma, che è un po' una rivisitazione della Cowboy contro Pelle Rossa, se vogliamo, alla fine, ma questi Pelle Rossa sono molto avanzati, ma ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo. Prima vogliamo presentarvi un altro film più piccolo, decisamente più piccolo come produzione, ma che ha almeno nelle tematiche motivi di interesse. Si intitola I Want to Be a Soldier, voglio essere un soldato, e il colui del film che esclama, dice questo slogan, diciamo, è un bambino di 10 anni che è forse un po' troppo vessato da una violenza sempre più pervasiva che arriva dappertutto, a partire dalla televisione. Allora sentiamoci insieme il trailer di I Want to Be a Soldier, così ricostruiamo un po' le atmosfere e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Mi chiamo Alex e da grande voglio fare l'astronauta. Sono le 9, tesoro. Già. Baci della buonanotte. Sì, sì. Va bene, è ora di fare i compiti. Tu lo sai fare? Sai dare il buon esempio? Certo, sarò il fratello maggiore più bravo del mondo. Così mi piace. Alex, va a letto. Dai, posso vedere come finisce questo? No, è tardi e c'è il telegiornale. Allora posso avere una TV in camera mia? Stiamo dando molta fiducia. Puoi guardarla mezz'ora al giorno. Quando diciamo di spegnere la TV, si spegne la TV. Va bene, papà, non basta avere la TV in camera. Mio figlio da grande vuole fare il soldato. E personalmente non ci vedo niente di male. Alex è un bravo ragazzo. Forse lo è a casa, ma non lo è a scuola. Alex! Che c'è? La maestra non ti sopporta più, lo sai che significa? Sei espulso! Io voglio dirle una cosa che penso sia importante per Alex. Ha un amico immaginario. I bambini devono essere corretti. Nessun nemico riuscirà mai a raggiungermi. Vedo una gran marmaglia intorno a me. Difendi la città di rosso, soldato! Signor, sì, signore! Tu sei un killer! Sei un killer! Avete capito insomma di cosa si tratta? È uno di quei trailer in cui poi diventa quasi inutile andare a vedere il film. In realtà è sempre utile per capire se poi le suggestioni corrispondono a qualcosa di riuscito sullo schermo. Boris Sollazzo, ben ritrovato con La Rosa Purpurea. È andata così? Non è andata proprio così, nel senso che il tema del bullismo è un tema importante e devo dire probabilmente in fase di scrittura il film aveva anche un suo interesse, perché questo ragazzino bravissimo, dall'altro, Fergus Riordan, che già insomma ha scritture a Hollywood e dintorni, sta facendo un film con Nicolas Cage, è un ragazzino normale, un figlio unico, viziato, amato, un bravissimo ragazzo, che viene poi sconvolto da due avvenimenti in questo senso anche molto normali, e questo è apprezzabile, cioè non ci sono drammi straordinari, ma l'arrivo di due gemellini che tolgono l'attenzione su di lui e poi l'arrivo della TV che con le sue immagini di violenza cominciano a condizionarlo. E quindi lui, da un amico immaginario astronauta che lo spinge a guardare in alto verso le stelle, trova invece un amico immaginario sempre con la stessa faccia ma vestito con una divisa militare, che invece è razzista, violento, che sembra insomma l'istruttore di codice d'onore o di ufficiale gentiluomo. È tutto troppo didascalico, a dire la verità, nel senso che anche l'atto d'accusa alla televisione, che a noi non può che far piacere essendo qui in radio, è onestamente più demagogico che circostanziato, insomma, diventa molto stilizzato, e questo insomma toglie molta credibilità a un film che invece lo vuole essere molto. Sicuramente quando la camera rimane sul bambino e rimane sulle reazioni del bambino e rimane su quello che fa il bambino, ha più efficacia rispetto a quando va nel mondo degli adulti, che mi sembrano completamente invece inadatti sia al racconto sia a rappresentare questa realtà. C'è tra le coproduttrici e tra le attrici anche Valeria Marini, complimenti per il coraggio per aver comunque coprodotto un film con una tematica così importante, meno per il coraggio di andare davanti a una macchina da presa, temo che lei comunque ancora non abbia capito che non è proprio il suo lavoro recitare, lo capisce anche il giovane Cristian Molina, il regista, che la lascia, insomma, le lascia poco spazio. Per il resto, ecco, è una buona idea non riuscita, a mio parere. L'ultima curiosità, molto strana, il film ha vinto l'anno scorso a Roma il premio per il pubblico nella selezione Alice nella città, in una giuria composta da ragazzini dai 7 ai 14 anni. Bene, è vietato ai minori di 14, abbastanza grottesco. Beh, insomma, questo è notevole, devo dire. Allora, parliamo invece di Cowboy Alieni, va, perché eravamo insieme, io e Boris Sollazzo, a Locarno, quando è stata presentata in prima europea, almeno, la pellicola firmata da Jon Favreau, e parliamo di un regista che firma Iron Man, quindi insomma grandi aspettative. Parliamo di una trama che è quella storica dei cowboy che salvano nel western classico la prateria e i villaggi dai Pelle Rossa, questa volta invece dagli extraterrestri, ma siamo sempre nel 1873 in Arizona. Allora sentiamo una prima clip. Da dove vieni? Ho bisogno di saperlo. Anch'io. E quello che avete sentito è Daniel Craig nel cast insieme a Olivia Wilde, ad Harrison Ford, e questo direi è il trio forte di questa locandina, una locandina che si ripromette di portare al cinema davvero parecchie decine di migliaia di persone, quindi un film di grandissime ambizioni. Boris, una storia che vorrei raccontare in due parole, cioè quella di questo berbero papà di un ragazzo piuttosto antipatico, devo dire, che sta in questo villaggio dell'Arizona nel quale arriva uno straniero apparentemente, come avete sentito anche dalla clip, senza passato, non si capisce bene chi sia, e però in una sera in questo posto nel quale c'è un regolamento di conti arrivano delle cose dal cielo, insomma delle sorti, non neanche si possono definire astronavi, sono degli oggetti volanti, ecco, che arrivano dal cielo e contro i quali, pur nella loro ignoranza, questi cowboy capiscono che devono immediatamente unire le forze, lasciar stare le beghe da quartiere e cercare invece di occuparsi di questa cosa con la C maiuscola che è arrivata sulla Terra. Allora sentiamo una seconda parte della clip e poi ne parliamo con Boris. Cos'è quella cosa? Perché lo chiedi a me? Perché l'hai abbattuta. Ci servono più armi. Ci faranno fuori. Lei chi è? È l'unica a sapere chi sono. Tu sai chi sei, devi solo ricordarlo. Prendete le pistole, ce ne andiamo. Abbiamo un vantaggio. Loro vi sottovalutano. Boris, anche qui ovviamente siamo su livelli produttivi che non hanno paragone con niente, ma anche qui una prima ora gradevole, la preparazione, l'arrivo dello straniero nel villaggio, il ragazzino viziato che è Paul Dano, tra l'altro un attore che io adoro perché sta diventando sempre più un attore visivamente importante in un film, uno di quelli che ti cambia un pochino anche la storia del film, ed è uno di quelli che è capace di interpretare ruoli sempre marginali in maniera perfetta. Però dicevamo appunto una prima ora molto ben riuscita a mio modo di vedere, che crea una grande suggestione, ma poi quando l'arcano si svela e diventa davvero cowboy contro pelle rossa, anche se del futuro o di altri pianeti, mi sembra che la cosa si afflosci un po'. Assolutamente d'accordo, tra l'altro sono così d'accordo su quello che dici di Paul Dano che ti faccio notare che il film comincia a morire nel momento in cui Paul Dano se ne va, in cui non c'è, e questo dovrebbe dire parecchio, nel senso che manca la parte anche più brillante e più imprevedibile. Il film è un film che ci mette tanto a presentarsi, anche troppo, e in questo non segue, diciamo, la regola di Jon Favreau, che invece è tutto e subito, però forse con Iron Man aveva tanto e subito, mentre Cowboy vs. Aliens viene tratto da una graphic novel che si chiama di Rosenberg, appunto omonima, che è abbastanza mediocre, probabilmente è il materiale di partenza che frega il pur bravo esecutore e attore Jon Favreau. Però, come dici tu, poi nel momento in cui bisogna quagliare, nel momento in cui dobbiamo forse divertirci con questi cowboy Ford Craig, con questa donzella in pericolo di Via Wild, tutto si sgretola, non è nulla all'altezza di quello che ci saremmo aspettati, sia leggendo la sinossi, sia poi vedendo il film. E quindi nella seconda ora si rischia a volte anche di assopirsi, devo dire. E beh, allora, nonostante questo viatico, diciamo, non esaltante, sono abbastanza convinto troveremo cowboy e alieni in vetta o dalle parti della vetta della classifica nel prossimo lunedì nel box office, forse anche a rianimare una classifica degli incassi abbastanza asfittica nel mese di settembre. Quelli che sono i dati vedono un calo piuttosto robusto, ma mi sembra di poter dire che non c'è stato prodotto forte. Boris, appuntamento alla prossima settimana qui alla Rosa Purpurea. Alla prossima settimana, Franco. Ebbene, con questo noi abbiamo esaurito tutte le nostre novità al cinema. Vi abbiamo parlato dei principali film che arrivano in sala in questa settimana, ovviamente adesso la scelta sta a voi. Invece quello che dobbiamo fare insieme è ancora giocare con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Sì, ho frequentato l'Università del Congo per studiare il coito delle balene. Wow! È raro che un barbiere faccia l'università. Cosa vorresti dire? Che ho l'aspetto di un barbiere? No, ma quello è un rasoio da barbiere. La Rosa Purpurea @radio24.it. Se avete già capito di che film si tratta, più tardi ci sarà l'ultima possibilità. E parliamo ora di un festival che si è concluso, lo facciamo ex post, lo facciamo dopo la fine perché è ampio e molto interessante è il dibattito che si è sviluppato attorno alle novità più clamorose presentate da un festival che qui alla Rosa Purpura abbiamo sempre, come dire, sottolineato con la dovuta cura, che è il Festival del Cinema Muto di Pordenone, le giornate del muto, e siamo in collegamento con Livio Jacob, che è un po' il deus ex machina, non solo della Cineteca del Friuli ma anche appunto di questo straordinario festival. Buongiorno professor Jacob. Buongiorno a voi. Allora, quest'anno nel segno di Greta Garbo e Alfred Hitchcock, sono due nomi pesantissimi, cosa siete andati a scovare stavolta di muto di questi due grandissimi artisti? Beh, insomma, allora Hitchcock è una rarità, nel senso che è proprio il suo primo lavoro, non è un film, si tratta di The Wild Shadow, non è un film diretto da Hitchcock, ma al quale Hitchcock ha dato una particolare impronta e che si vede nel film stesso. Purtroppo si tratta di solo metà del film come era in origine, che durava appunto circa un'ora, noi abbiamo presentato una mezz'ora, la prima mezz'ora, però si fa vedere, si fa ammirare e ci sono molte molte cose hitchcockiane dentro. Per ciò che riguarda Greta Garbo invece abbiamo ritrovato purtroppo soltanto un frammento, ma è l'unico frammento sopravvissuto assieme ad un altro che è stato ritrovato una ventina di anni fa, di Divine Woman, la donna divina, con la scena del bacio fra la Greta Garbo, una bellissima scena peraltro, che dice molto su quello che potrebbe accadere prima e dopo, insomma, di un film perduto, la scena del bacio fra Greta Garbo e Lars Hansen. Quindi insomma un film perduto di cui abbiamo solo pochi frammenti, ma che ci dicono quanto potrebbe essere bello se lo ritrovassimo al completo. E allora speriamo che questo ritrovamento avvenga davvero nei prossimi mesi. Ovviamente chiunque volesse vedere cosa è passato a Pordenone può farlo attraverso il sito internet del festival. Noi saremo qui a raccontare sempre queste novità, queste scoperte, ogni qualvolta ce ne sia la possibilità. Grazie al professor Jacob. Grazie a voi. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, quarta parte come sempre dedicata alle visioni domestiche, ai film da vedere magari a notte fonda in casa per recuperare, colmare qualche lacuna cinematografica, magari rivedere film che non si vedono più in giro da tanto tempo, nemmeno in un video. Parleremo anche di un video, prima partiamo con la TV, con la consueta perlustrazione dei palinsesti televisivi della prossima settimana. Abbiamo scelto tre film perché era una settimana particolarmente ricca la prossima per quanto riguarda i grandi film in televisione. Allora cominciamo con una proposta per questa domenica in serata, lo facciamo come sempre con gli amici del settimanale Film TV, e in collegamento con noi Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le segnalazioni di Film TV. Allora cominciamo da un film che ha un fascino veramente molto particolare come Little Odessa. Sì, Little Odessa, domenica alle 22:40 su Re4. Una famiglia di immigrati russi a New York, due fratelli, uno dei quali è un sicario, una madre malata e il difficile rapporto tra padre e figli. James Gray, a 24 anni, debutta con un noir venato in dramma familiare che, in totale aderenza alle logiche del genere, si trasforma nella tragedia di un'anima, quella di un gigantesco Tim Roth, che non può essere redenta. Diceva Melville, ci vuole più fegato e talento per fare un film classico che uno moderno. E con questo film, a 24 anni, James Gray dimostra di avere tantissimo talento e tantissimo fegato. E questo allora è il perché vedere Little Odessa alle 22:40 di domenica 16 ottobre su Rai 4, quindi digitale terrestre, come sempre la nostra policy rispettata, film da vedere gratuitamente, no? Non vi vogliamo invitare a spendere soldi, vogliamo invitarvi a recuperare film importanti, così come, qui io lo amo alla follia, lunedì 17 ottobre 1995, dal lavoro di Paul Auster viene fuori un film che rimane, a mio modo di vedere, un capolavoro minimalista della nostra epoca e della nostra esistenza, che è quello diretto da Wayne Wang, si intitolava Smoke. Sì, assolutamente, Smoke, quindi lunedì alle 17:10 su Rai Movie. A Brooklyn, in un negozio perfumatori, si intrecciano storie che Paul Auster, co-regista e ovviamente sceneggiatore, coglie con il suo solito sottile garbo umanista. È un piccolo film che appunto è diventato di culto, è l'opera più compiuta di un regista della carriera, che è molto eclettica, quasi da farsi fino a diventare imprendibile, che è Wayne Wang appunto, ed è un saggio dedicato veramente sull'arte del minimalismo. E questo è allora Smoke, la vita potremmo dire vista dall'angolazione di un tabaccaio, che è però un'angolazione molto molto interessante, tra l'altro attori straordinari. Andiamo al venerdì successivo, venerdì 21, per scoprire una perla rara di un regista come Mike Leigh, che siamo abituati a vedere alle prese con ben altri temi, ben altre drammaticità delle storie. Qui invece ci racconta qualcosa di anche leggero, comico e anche molto canoro, come il film Topsy Turvy, Sotto Sopra. Esattamente, che è venerdì alle 16:40 su Iris. Siamo nel 1884, Mike Leigh, in un inusuale per lui film in costume, scandaglia la crisi creativa di un celebre duo d'autori d'operetta, Gilbert e Sullivan. È scritto con un acume, una fluidità, una capacità di creare con le forme del realismo, ed è il ritratto di un'età, quella vittoriana, e che diventa una ricostruzione dettagliata in grado di parlare di un tutto da una prospettiva ristretta. È come al solito un film densissimo, ma qui appunto c'è un surplus di comicità che lo rende un film delizioso, arguto e assolutamente imperdibile. E questo è Topsy Turvy, venerdì 21 alle 16:40 su Iris. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Grazie a te Franco, e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Ebbene, queste erano le segnalazioni di Film TV per i film da non perdere. Little Odessa, Smoke e Topsy Turvy settimana prossima in televisione. Ultima traccia del film misterioso di oggi. Vuoi che questo forte, lucente e possente guerriero costruisca una fortezza dove puoi rifugiarti? In modo che tu non debba mai aver paura, non debba mai sentirti sola, non debba sentirti esclusa. È questo che cerchi, vero? Sì. Non lo troverai mai. Beh, insomma, qui forse chi non è proprio giovanissimo deve aver indovinato, anche sentendo questi straordinari dialoghi. Andiamo un po' indietro nel tempo con uno straordinario capolavoro di tutti i tempi del cinema italiano e non solo. La Rosa Purpurea, @radio24.it per dirci di che film si tratta e provare a vincere il Blu-ray di questo film uscito in edizione in alta definizione proprio negli ultimi tempi. Noi poi settimana prossima vi diremo chi ha vinto, vi diremo che film era, lo facciamo adesso invece col film di 7 giorni fa, sentiamo. Non ho mai combinato molto nella mia breve vita miserabile, c'è del vero, sì. Ma porco cane, tutti diranno che Scram è stato baciato da una vera sirena. Lasciatemi! Ed era l'ultimo capitolo di una saga, a mio modo di vedere, ormai un po' stanca, come quella dei Pirati dei Caraibi, e questo era ovviamente il capitolo numero 4. Hanno indovinato Daniele Burnazzi di Rimini e Fabrizio Russo di Trento, saranno loro a ricevere il Blu-ray, sempre impeccabile, dalla Disney, di questo film, del quale parliamo col nostro Claudio Poffi, che è in collegamento. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, attenzione, perché per Pirati dei Caraibi, oltre i confini del mare, Disney ha un'offerta doppia. C'è una prima edizione che contiene il Blu-ray 2D, il Blu-ray Disc 3D e la copia digitale, e una seconda con il Blu-ray 2D, il DVD e la copia digitale. Sono entrambe di strepitosa qualità video. C'è una differenza per l'audio, in quanto la visione del disco 3D riserva per l'italiano solo la codifica Dolby Digital multicanale, mentre per avere il DTS ad alta risoluzione in italiano occorre passare al Blu-ray 2D. Gli extra sono spalmati su entrambe le edizioni, segnaliamo su tutti sicuramente il commento audio del regista Rob Marshall, ci sono errori sul set e numerosi approfondimenti sulla lavorazione. Anche le serie TV italiane, quelle più divertenti e quelle più riuscite, diventano film, come succede anche in America. La strada, quest'anno tra l'altro ci sarà anche I Soliti Idioti, invece ad aprire la strada è stato l'anno scorso Boris. E se faccio un'altra cazzata mi retrocedono, mi mandano alla sezione cinema, dove ci sono i registi che non si lavano, che puzzano di zolfo, i dirigenti con la salmonella, che tra di loro si chiamano compagno consigliere. Cristo, René, io non me li voglio mettere quei golfini pelosi con quegli occhialetti alla Gramsci. E cosa dici? Ma quali occhialetti? Ma che stai dicendo? Mi lascio morire se finisco lì dentro, René. Perché dopo la sezione cinema c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte. Stanco di avere realizzato per anni fiction televisiva spazzatura, il regista René Ferretti entra in crisi, abbandona la troupe e gli amici per il cinema impegnato. L'idea sarebbe quella di realizzare un'opera di impegno sociale, capace di raccontare corruzione e faccendieri, dell'italietta che truffa e campa sulla pelle degli altri. Con il cinepanettone, simbolo italiano del successo sicuro ai botteghini, per René il compito di rilanciare il cinema d'autore sarà impresa ardua. Commedia brillante che nasce dal successo dell'omonima fiction televisiva, da 01 Rai Cinema l'uscita DVD e Blu-ray sono entrambi di ottima qualità, per l'alta definizione addirittura una traccia DTS alta risoluzione. Come extra segnaliamo un backstage di 22 minuti e scene tagliate. Allora, velocemente all'ultima proposta di questa settimana, è un film, come dire, di quelli che hanno avuto un eco mondiale qualche anno fa, parecchi anni fa, Il nome della rosa. Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accadde di assistere in gioventù. Nell'Italia del 1300 Guglielmo da Baskerville è un frate chiamato a investigare, assieme a un giovane novizio, una serie di inquietanti omicidi che hanno luogo presso un'abbazia a nord. Dal capolavoro di Umberto Eco arriva il Blu-ray, offre una migliore resa da parte di Warner Home Video rispetto al DVD sempre della stessa casa, ma non è comunque esente da limiti, tra cui c'è una scarsa profondità di campo e grani in evidenza. Per l'italiano, nella traccia Dolby Digital due canali ritroviamo l'originale doppiaggio dell'epoca, ma con qualche problema di integrità per i dialoghi. Sono interessanti i commenti, su tutti sicuramente quello del regista Jean-Jacques Annaud, in una rarissima offerta, in quanto lo si può ascoltare sia in inglese che in francese. E allora, grazie a Claudio Poffi, appuntamento la prossima settimana con le segnalazioni in home video. Ciao, a presto. E siamo alla fine della nostra trasmissione. Grazie a Margherita Aina che ci ha aiutato in redazione. Grazie e auguri a Calmero Lauricella che compie gli anni, non vi diremo mai quanti, ma sono tantissimi. Grazie anche a lui per averci aiutato. La settimana prossima saremo qui, come sempre, il sabato alle 18, la domenica alle 15 alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.